America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. E finalmente, dopo anni di oppressione, il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. L'avrete riconosciuto, il grande, grandissimo Giorgio Gaber, che parla di libertà, e il preambolo, questa sua affermazione alla straordinaria canzone che ha scritto sulla libertà. Ve ne parlo perché abbiamo parlato a lungo di libertà nel corso della lunga campagna elettorale. L'America poggia sulla libertà, sui valori di libertà. Ne hanno parlato Barack Obama, ne ha parlato Mitt Romney, ognuno ha cercato, come dire, di elaborare il suo modello di libertà. Per esempio Mitt Romney vuole libertà da regole, vuole il mercato libero, non vuole che ci siano gli interventi dello Stato. Invece Barack Obama pensa che la libertà sia più collettiva, la libertà di scelta, per esempio la donna che può scegliere di fare l'aborto, la libertà di coscienza, e così via e così via. C'è sempre stata un po' di contrapposizione su questo concetto di libertà americana, persino in America, la patria della libertà. La libertà non è star sopra un albero. Abbiamo rievocato questa libertà anche naturalmente in funzione americana, perché è un valore assoluto, e vorrei agganciarlo a questo punto a una delle puntate che facciamo ogni tanto di Solo Andata. Perché? Perché ho qui con me ai microfoni di America 24 Valentina Cordero. E Valentina Cordero chi è? Intanto una ragazza brillante, intelligente, simpatica, ma che ha preso un biglietto di Solo Andata, non so se per sfortuna o per fortuna, ma per venire a lavorare qui con noi. Ha lavorato a lungo con noi, è diventata giornalista professionista lavorando qui all'IMC, ad America 24, nel contesto delle nostre piccole attività americane. E Valentina cosa ha fatto? Ha scritto un libro il cui titolo è La libertà come riconoscimento. Taylor, interprete di Hegel, diciamo un taglio non propriamente giornalistico, e quindi un'espressione filosofico-concettuale piuttosto complessa, ma che riguarda pur sempre questo tema di fondo che è la costante con la quale tutti ci confrontiamo da questa e da quella parte dell'Atlantico. Valentina, buongiorno. Buongiorno a te, Mario. Allora, tu hai sentito mille di queste trasmissioni dall'altra parte della porta, e adesso sei tu qui protagonista con noi, esatto, di una trasmissione. Allora, Valentina, intanto tu hai preso un biglietto di Solo Andata a un certo punto. Perché sei venuta in America? Ho preso il biglietto di Solo Andata con la speranza di ottenere degli spazi liberi più ampi rispetto a quelli che avevo preso. Di dove sei tu, Valentina? Dalle Langhe. Quindi parliamo di cose sopraffino, cibo, vino, tutte le cose più belle che l'Italia. Il buon vivere, come si dice. Che l'Italia può dare. E dunque, ci sono molti spazi liberi nelle straordinarie colline delle Langhe. Ecco, qui ci sono i grattacieli. E la libertà è un concetto astratto. Ti senti più libera qui o ti sentivi più libera nei grandi spazi delle Langhe? La libertà in questi due sensi è totalmente diversa. Qua mi sento più libera non a livello di spazio, ma a livello di come individuo, nel senso che, come dico nel mio libro, parlo di multiculturalismo, di libertà come riconoscimento, quindi una libertà intesa in un senso molto particolare, non generale. E New York è una delle città più multiculturali che esistono al mondo. E quando cammini per le strade di New York incontri tantissima gente, tantissimi volti, colori diversi, e in questo primo momento di perdita di senso della tua identità forse c'è ancora uno spiraglio per riconoscersi e quindi auspicare ad una possibile libertà. Quindi sei contenta di questo tuo biglietto di Solo Andata, a parte il percorso a ostacoli che hai dovuto passare stando qui con noi? Sì, rifarei tutto fin dall'inizio, passo dopo passo. Cioè, ma è stato un po' un percorso a ostacoli o no, di la verità? Certo, molti ostacoli, molta fatica, però sono riuscita a realizzare quello che volevo, insomma, il mio sogno, fare la giornalista e scrivere un libro. Ecco, questo libro non è, diciamo, un libro propriamente giornalistico, perché non ci racconti qual è il senso? Perché passiamo adesso alle cose, alle questioni più serie, perché insomma Hegel è stato un grande interprete della libertà, poi Hegel e Marx, insomma, hanno segnato il percorso del Novecento. Taylor, filosofo canadese, è stato interprete di questo concetto della libertà di Hegel. Ecco, tu costruisci un tema su questo. Qual è, esatto, il tema centrale? Le domande che guidano tutta la ricerca che c'è dietro questo libro sono due. Primo, è possibile oggi parlare di libertà come riconoscimento nella società in cui viviamo? Secondo, se la libertà in senso hegeliano, nelle due opere che ho analizzato, che sono due capolavori dell'intera storia della filosofia, può ritenersi ancora valida? E per rispondere a queste domande ho analizzato le opere di Charles Taylor, questo filosofo canadese, che risponde in maniera negativa a entrambe le domande. Questo non per minimizzare Hegel o perché tutta la filosofia hegeliana sia in qualche modo sbagliata, ma semplicemente perché nella società in cui viviamo non ci sono quelle basi plausibili, quelle chiavi di volta che riuscirebbero a sostenere il sistema hegeliano, a reggerlo. La società, secondo Taylor, ha perso, il mondo intero ha perso il senso, quel senso magico, quel senso di sacralità che poteva avere la polis greca, dove la ragione non è più una ragione illuminista che Kant andava decantando nelle sue opere, ma è una ragione che si è fatta strumentale. Per citare il manifesto di Marx, è come uno stregone che non riesce più a controllare le potenze da lui stesso evocate. Facciamo un balzo all'America. Hegel probabilmente avrebbe qualche cosa da ridire, ma tu come vedi questa espressione di libertà 200 anni dopo? Cioè, mentre Hegel scriveva, la grande democrazia americana, la più vecchia, la più antica della storia, nasceva, e quindi è un po' alla fine del suo percorso. Tu come la vedi? Ma Hegel, se fosse ancora vivo oggi, diciamo che si metterebbe un po' le mani nei capelli, perché comunque la libertà in America, secondo i suoi canoni, non è ancora realizzabile. Per quello che la vedo io, al di là dei miei studi filosofici, io sono arrivata qua 3 anni fa con tanti sogni nella mia valigia e sono riuscita a realizzare alcuni di questi sogni, a scrivere, a pubblicare un libro. E qua, rispetto a come mi potevo sentire prima, comincio a sentire il profumo di una vera libertà. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di libertà. Beh, il simbolo della libertà in America è la strada. Muoversi, partire, andare, raggiungere le nuove frontiere, usare queste strade sconfinate. E dunque, in nome della libertà, dedichiamo la canzone di oggi a Willie Nelson, On the Road Again. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.